la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon venerdì 31 di ottobre, sono le 16.36 e 5 secondi, qui in diretta di Studio Radio 24 di Milano, e io vi voglio subito ricordare l'appuntamento anche che abbiamo da domani tutti i sabati dalle 10 alle 12 insieme, non solo a me, ma soprattutto a un nuovo compare con cui mi troverete in diretta per 2 ore ogni sabato, caro Alberto Carnevale Maffè. Vedrete domani probabilmente abbiamo anche una sorpresa da Draghi, vi dico solo questo, e sentiremo anche risposte di bambini che, visto che di economia ci capiscono un poco i grandi, ci affidiamo un po' a loro, ma parleremo di tantissime altre cose, tasse, banche e soprattutto delle cose che capitano a tantissimi di voi. Abbiamo fatto una bella collezione e continueremo, quindi segnalatevele, di cose segnalatecele, le cose che non sono tollerabili, non si può fare, per così dire. Vabbè, comunque, appuntamento domani dalle 10 alle 12 su Radio 24. Oggi di che parliamo oggi? Parliamo del 700, del modello 730 precompilato, che parte l'anno prossimo, perché il governo ha confermato che molti milioni di contribuenti italiani, si parla addirittura di 20 milioni, l'anno prossimo, lavoratori dipendenti e pensionati, ricevono direttamente dall'Agenzia delle Entrate il modulo precompilato per pagare le tasse. Semplificazione. Io, a dire la verità, leggendo il dispositivo, un po' mi gratto la testa, perché, per essere chiari, un meccanismo per il quale lo Stato manda il precompilato e però minaccia da subito i commercialisti, i CAF, cioè gli intermediari, quelli che elaborano i dati, dicendo: guardate che voi ne rispondete, siete voi i responsabili e io vi multo e vi sanziono se non ce la fate a mandarmeli in tempo per quello che c'è scritto e così via, già mi pare una cosa abbastanza incomprensibile, a dire la verità, perché per l'ennesima volta ci saranno ancor più i privati che lavorano come esattori dello Stato senza dipendere dallo Stato e con la multa dello Stato sulla testa per i modelli precompilati che lo Stato vi manderà. Però io su questo continuo a essere in minoranza, probabilmente mi sbaglio, ma a me sembra una cosa completamente malfatta. Dopodiché chi lo riceverà avrà la facoltà di dire se lo accetta oppure se lo modifica, e avrà una scadenza fino a luglio per farlo. In teoria questa roba si mette in moto a marzo, quindi i tempi rispetto all'elaborazione di milioni e milioni di dati sono, per i tempi dello Stato, rapidissimi. Vedere per credere, che cosa volete che vi dica io? Nel frattempo poi voglio vedere i CAF sindacali, i centri di assistenza fiscale sindacali, nel momento in cui la legge di stabilità li bastona, cosa di cui io non mi lamento troppo a dire la verità, però capisco che loro protestino, perché li bastona con una diminuzione secchissima di un pacco di milioni ai patronati sindacali. Però vedere per credere. Però noi ci appelliamo come sempre a una persona molto più competente di me, il nostro vate, il nostro nume in materia di diritto tributario, il professor Raffaello Lupi, che insegna appunto diritto tributario a giurisprudenza all'Università di Roma di Tor Vergata, e io ringrazio il professor Lupi di essere con noi. Buon pomeriggio. Salve, salve a tutti. Allora, innanzitutto, che ne pensa di questa cosa che è in arrivo tra pochi mesi? Non è che si sentisse dal mondo dei fiscalisti, dei contribuenti, dei centri di assistenza fiscale un grido di dolore: dacci il 730 precompilato. Insomma, se ne sentivano tante, questa non si sentiva, però non mi dispiace. Lei dice una buona cosa. Come idea, purché non ci mettiamo in testa di inventarci 20 milioni di commercialisti, cioè il cittadino soldato e il cittadino contribuente che fa tutto da sé appartiene alla soffitta, cioè non è che si può ridurre a un rapporto bilaterale il fisco di marcia. Lo so che è bello, perché sembra l'idea: lo Stato sa tutto di te, lo Stato ti vede, lo Stato è amico. È bello forse per lei, a me viene il terrore, a dire la verità, professore. Cioè, no, tant'è vero che io le telefonate che chiamo, non è che sa tutto di non è che sa tutto di me sulle mie abitudini gastronomiche, cinematografiche, sa tutto dei soldi che devo pagare, cioè tutti lo dicono, ecco, se ce lo dicessero quanto dobbiamo pagare invece di andare in giro a spaccarci la testa sui moduli dal commercialista, eccetera, sarebbe bello. Questo più o meno lo dicono anche i liberisti. Sì. Bisogna vedere se riescono a farlo, perché bisogna acquisire dati, informazioni. Cioè io, perdone, la cosa che non capisco è questa. Se lo Stato, e si capisce dal dispositivo e dalle sanzioni per gli intermediari da cui ricaverà, vuole i dati, no? Se lo Stato si appoggia a loro per avere i dati, che sono praticamente coloro a cui si rivolgono i contribuenti, in che cosa cambia davvero, se non un mero passaggio in più? E se fossi il contribuente, un passaggio che mi fa diffidare rispetto agli errori che si possono moltiplicare e aggiungere, visto che tanto è il mio intermediario sempre la fonte dei dati. Cioè... No, non è l'inter, perché lo Stato deve averli dal datore di lavoro. Esatto. Quindi deve averli eventualmente dalle banche che prendono gli interessi che poi io mi posso dedurre NB, ma che ne sa la banca se quella è prima casa, oh, seconda, cioè ci sono una serie di condizioni soggettive, esatto, che quelli mica c'hanno la palla di vetro, cioè l'assicurazione sulla vita si sì, sia astrattamente deducibile, però nei limiti di 2,5, quindi va bene, gliene manderanno due e poi nel precompilato ce le mettono fino a 2,5. Quindi non è che sia il mio CAF, sono una serie di soggetti erogatori di redditi e di oneri deducibili, che percettori di oneri deducibili, che lo devono dire all'agenzia, dopodiché entra in gioco il mio CAF. Sì. Perché pure questi 20 milioni di pezzi di carta che girano per l'Italia, ne vogliamo parlare? Ah, ecco. Cioè, ma c'ha un senso mandare, cioè la signora Colombina Rossi riceve un 7,30 precompilato e dice, e beh, cioè adesso come faccio a dire che io non l'ho visto, come faccio a dire che mi va bene? Cioè, ma mando un piccione viaggiatore, sto zitto. No, perché questo sarà il problema di milioni di italiani. Cioè, l'italiano dice, oh che bello, precompilato, guarda là come va bene, adesso glielo devo dire, chiamo un numero verde. Cioè, no, ci sarà un sistema. Nell'ipotesi che lo voglio cambiare, perché ho gli scontrini della farmacia, devo acquisirlo su internet, quindi devo andare da un CAF, sì, gli devo portare la fascetta degli scontrini, la fattura dell'oculista, lui poi me la carica. Allora mi chiedo, ha senso no, un pezzo di carta? No. Scusi, perché è questo che dico io. Nel caso di cui stiamo parlando, cioè la signora Colombina Rossi, che a quel punto dice no, io ho gli scontrini e quindi voglio agevolarmi di beneficare di quello che la legge consente, comunque andrebbe dal CAF, e non vedo perché aspettare il precompilato, fare il giro di 20 milioni di pezzi che di ripartono, a lei tornano, lei riprende, poi è in grado lei di capire, nella stragrande maggioranza dei casi no, quindi va da un consulente, si fa dire va dal CAF e porta gli scontrini. Messa così, lei descrive una cosa che è una complicazione, non è un aiuto. No, no, non del tutto, perché per il CAF e per l'agenzia, qui alla fine chi ci guadagna è l'agenzia che si sgrava. Agenzia delle entrate, cioè lo Stato. Esatto. Telematici ex post, esatto, spostandoli ex ante, cioè alla fine lei fa conto tutto sommato pari, cioè alla fine potrebbe essere una cosa, come dite voi economisti, win-win, cioè che ci guadagnano tutti. Se si gestisce bene, ah, ecco, se sì, si gestisce bene, perché il CAF se lo dovrebbe trovare su internet il precompilato, non è che lo ridigita, lo trova, ci aggiunge la fattura dell'oculista, sì, e gli scontrini delle farmacie e lo manda via, cioè non, sta già lì. Quindi se sul cassetto fiscale il CAF interviene, no, non deve nemmeno digitare, cioè si deve trovare un semilavorato già fatto, per questo dico il pezzo di carta a casa tutto sommato non serve, cioè questa è la cosa, perché per ora chi aveva solo un reddito di lavoro dipendente già non faceva, certo, il 730, esattamente. Quindi bisognerebbe ricevere l'avviso di andare da un CAF con un numero, quello che si dice il numero segreto, che è quello del tuo precompilato. Esatto, che è quello del tuo precompilato, dice se vuoi, perché tanto qualche cosa bisogna fare comunque anche per dire sì. Per cui o se fa una raccomandata dice sì, mi va bene. Temo che sia il principio del silenzio assenso alla scadenza, da quello che ho capito. Il principio del silenzio assenso alla scadenza. Che genererà, come lei mi insegna, una quantità di contenzioso. Dice no, mi è scaduto, non ho capito, no, come... Io mi sbaglierò. Come sei stato zitto, andava bene. Esatto. Sì, penso anch'io che alla fine il silenzio ha senso alla scadenza, pure se sotto questo profilo il decreto non... Non è chiaro. Non ho trovato il pezzo da cui si capisce che il silenzio ha senso. Però ecco, oppure vai, si va su internet, si cambia, si caricano le spese, cioè alla fine non è, può non essere male se viene gestito senza sospetti, senza terrori, con intelligenza, senza deresponsabilizzazioni, con iniziativa. Insomma, il messaggio politico lo stanno dando, insomma, di prendersi. Poi certo cominciano a voler scaricare tutto sugli intermediari. Questo non è un po' discutibile. Per me è intollerabile, però le chiedo, almeno discutibile lo è questo fatto o no? No, certo, sì. È chiaro che il far lavorare, far assumere una responsabilità agli uffici pubblici, soprattutto di gestione seriale di milioni di dati, è difficile. Però non è detto che la battaglia deve ancora cominciare prima di dire che è perduta. No, ma non perduta. Si tratta di discuterne ex ante, come si suol dire, nella speranza che le cose ancora da stabilire, anche se i tempi sono rapidissimi, quindi avranno stabilito tutto, ma ho i miei dubbi, possano essere in realtà commisurate anche ai rischi evidenti. Perché la mia opinione è che i professionisti privati, al di là dei CAF, che sui quali ogni anno ci sono tre giri di vite, per cui diventano a tutti gli effetti sempre più funzionari pubblici, che però non sono pagati dal pubblico, devono prendere i soldi dal privato, e con esposizioni civili e penali sempre più elevati nelle sanzioni, come lei sa, ecco, questa è una roba dura da buttare giù, se io mi metto nei panni dei commercialisti, senza voler difendere, però conoscendoli so già che ieri sera eravamo a Torino a discutere di queste cose con un po' di commercialisti, mi dicevano, insomma, a questo punto mi diano anche dei soldi come di funzionario dello Stato. Perché invece gli hanno diminuito gli 8 euro a quanto prendevano per le dichiarazioni inviate telematicamente, i CAF, che era questo di cui si diceva all'inizio, esatto, di trasmissione in presentazione. Esatto. Cioè gli 8 euro a dichiarazione li hanno pure abbassati. Esatto. E lei capisce che quindi è un po' difficile a uno Stato che ti chiede di più e, per quanto io non pianga, ti abbassa diciamo la commissione. Ecco, c'è una cosa che non torna, o no? Però basterebbe essere flessibili, cioè le sanzioni vanno bene se il CAF dà perché pare che ci fossero delle degenerazioni, sì, dove i CAF si mettevano d'accordo e davano per buone delle spese mediche scritte sulla carta, esatto, di giornale. E qui stiamo parlando della patologia, sulla patologia bisogna intervenire. Patologia c'è, quindi basterebbe... Però un conto è la patologia, che a quel punto bisogna intervenire sul male, altro conto è dire io a tutti vi taglio, perché come al solito non è un buon sistema. Sì, ma che altre responsabilizzazioni, che altre sanzioni ci sono se non quelle dell'asseverazione di qualcosa che non esiste? Lo capisco. Cioè, se c'è un errore interpretativo, allora io gli assevero spesa che teoricamente ci può stare in termini di spesa medica, cioè che è la solita distinzione fra la frode e le contestazioni interpretative. Poi arriva l'ufficio e dice ma gli occhiali non sono una spesa medica, cioè, però... No, chiaro, Cristo, un esempio, abbiamo strada e siamo in ritardo, 60 secondi di strada. La la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a parlare del 730 precompilato. No, rispondo agli sms che arrivano dicendo criticate sempre il governo. No, no, non c'entra niente la critica politica. Altro conto è capire, spiegarvi quello che abbiamo capito fino a questo momento alla lettura del decreto sul 730 precompilato e immaginare i problemi che si possono tra pochi mesi porre a milioni di italiani. Ecco, questa è la faccenda. Non è che dire è meglio come adesso. No, però tentare di capire, sì. Ecco, questo è, non è una questione di spirito critico pregiudiziale, assolutamente no. Sentiamo rapidamente un paio di ascoltatori come la pensano. Francesco da Bari, che dici di questo 730 precompilato? Pronto? Eccoci, Francesco. Allora, niente, secondo me l'Italia pecca del sistema fiscale troppo complicato, quindi da agio a evasori di evadere. Ci voleva un sistema fiscale più semplice dove uno sa che deve pagare. È come andare in macchina, se devo andare in macchina ci devo mettere la benzina, altrimenti so che devo consumare dei soldi. Per carità, però per dipendenti e pensionati che non hanno solo reddito dalla pensione lavoro ma fanno il 730, nasce a questo fine, ecco, cioè nasce come semplificazione questa iniziativa. Poi sentiremo il professor Lupi cosa pensa del tuo appello per un fisco più semplice, magari. Cristian da Milano, come la pensa? Buonasera Giannino. Buonasera. Intanto grazie per questa mezz'ora di verità che ci regala ogni giorno, che fa sempre tanto bene. Un'opinione, non una verità. Dico. Intervenivo a proposito del fatto che, come diceva il collega, sarebbe bello se questa cosa funzionasse senza timore e senza cosa, ma io sono più del parere del divino Giulio che diceva che a pensar male non ci si prende sempre. Il mio sospetto è che un sistema del genere creerà ovviamente una quantità di contenziosi incredibili e di errori che verranno comunque pagati e sanzionati, e come sappiamo quando prima paghi poi contesti. E in secondo luogo questo sistema mi sembra fatto semplicemente per giocare a scarica barile, cioè quello che sta facendo il governo da un po' di tempo. Chiarissimo. Sentiamo ancora Vitalba da Roma. Vitalba. Buonasera. Sì. Vorrei dire che questo provvedimento rovescia e diciamo destabilizza ogni legame fra merito, responsabilità e sanzione. Perché? Il governo si prende il merito della semplificazione, la responsabilità continua a restare in capo al contribuente sul quale gravano poi le sanzioni. Allora, lei pone un problema serio. Che dice il professor Lupi? Vede che la diffidenza è elevata, Beh, ma è il contribuente che porta i documenti delle spese mediche, quindi se i documenti non ci sono o sono palesemente artefatti, questo che non si riesce a gestire la distinzione fra il documento artefatto e il documento che interpretativamente può essere o non essere deducibile, però se i documenti sono taroccati non è che può essere sanzionata l'Agenzia delle Entrate, cioè è un'esternalità, cioè, sarebbe bello ricevere la comunicazione di quanto dobbiamo pagare, però quanto abbiamo speso lo sappiamo noi. Esattamente. Quindi siamo noi che dobbiamo tirare fuori le carte. Se le carte sono false, cioè è giusto che veniamo sanzionati noi. Senta, io le chiedo, però glielo devo chiedere, ma lei di questa tassazione retroattiva nuova della legge di stabilità sul risparmio previdenziale, sui fondi professionali previdenziali, che ne pensa? Non è che sono retroattive, siccome non è finito l'anno, si parte dal primo gennaio, la solita cosa. Ho capito, però è dura da buttare giù. Sì, vabbè, ma io le ricordo che nel 1627 Sir Edward Coke disse a Carlo I: il re non può chiedere una tassa su ciò che è avvenuto prima della legge con cui la chiede. Ecco, a me sembrerebbe un principio elementare. 1627, e qui continuiamo con le tasse retroattive. Comunque, vedremo come funziona questo 730 precompilato. Continuate con Radio 24, appuntamento con me domani mattina alle 10, Conti della Belva.